Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Un altro pezzo di Italia se ne va all'estero, Valentino Fashion Group, che vuol dire uno dei marchi più prestigiosi del lusso italiano, i fondi che erano di private equity che erano dentro il gruppo Valentino, infatti hanno annunciato l'operazione verrà chiusa a settembre, ma il fondo Permira da un lato e la famiglia Marzotto, la parte che era rimasta dentro Valentino Fashion Group, hanno venduto a un fondo che si chiama Maiola, che a tutti gli effetti è un fondo del Qatar. Non, i dettagli dell'operazione ufficialmente non si conoscono, ma dovrebbe essere un'operazione in cui la cessione è stata realizzata intorno ai 700 milioni di euro, e il che vuol dire pagare 27-28 volte il margine operativo lordo del 2011. Quindi un prezzo molto alto, e questo è sicuramente un elemento. Però attenzione, il punto è che, come ricorderemo fra pochi minuti, dal 2011, nell'ultimo anno, abbiamo perso un bel po' di marchi, quelli che tra virgolette avremmo dovuto tenere, visto che continuiamo a ripetere che il lusso è un settore anticiclico, che la domanda sul lusso arriva fortissima non solo da Brasile, Russia, India e Cina, ma anche da paesi meno quotati, come il Kazakistan, come paesi dell'est asiatico che spesso non citiamo, come tutta la sfera della penisola araba, quindi Emirati, Arabia Saudita, non solo. Insomma, questi marchi non conoscono crisi, lo dimostrano anche in borsa. C'è una fortissima domanda mondiale di lusso riconoscibile. Ecco, cosa sta facendo il nostro paese? Non sto dando la colpa a nessuno, ma il dato di fatto è che abbiamo perso in un anno Bulgari, Edison, Parmalat, Brioni, Ferretti e poi anche la Ducati e adesso Valentino Fashion Group. Insomma, no? Direi che c'è un po' da preoccuparsi, perché visto che è vero che il nostro sistema di impresa è un sistema che si basa sulle piccole e medie imprese, sui distretti, sulle piattaforme produttive, ma un paese deve avere anche le punte di diamante e gioielli con cui competere in un mercato, ripeto, che è il più interessante da questo punto di vista, e di questo parleremo in apertura. Poi la borsa che oggi è negativa di 2 punti percentuali a Milano, va molto male, mentre perde Parigi, perde lo 0,70, Francoforte lo 0,60 e Londra cede l'1,20%, l'America perde 0,5 punto percentuale, va molto male, dicevo, Telecom Italia meno 6,70% e alcune banche. Il Banco Popolare perde il 5%, la Popolare Emilia Romagna perde il 4,80, Ferragamo settore lusso meno 4,30, Tod's meno 4% anche oggi. Pesano i risultati di Barbaris di ieri a Londra, di Assori meno 3,80, Mediaset di nuovo debole meno 4% da quando sono stati diffusi i palinsesti, il titolo continua a perdere. E ancora, per quello che riguarda chi cede, Parmalat il 3,5%, Luxottica il 3,34%, Fiat il 3% come Enel. Chi guadagna oggi? Nessuno tra i titoli maggiori. Azimut è invariata, A2A pure. Altro tema che tratteremo, visto che parlavamo di Fiat, la vicenda Peugeot sta creando grossissime tensioni in Francia, l'annuncio di un taglio di 8.000 posti di lavoro da parte del gruppo automobilistico francese PSA, Peugeot Citroën, e la chiusura fra due anni, nel 2014, dell'impianto storico di Aulnay vicino a Parigi, dove lavorano 3.000 persone. Anche il sito di Rennes l'ha toccato, 1.400 posti di lavoro in meno, dicevo, moltissime tensioni. Lo stesso premier francese Jean-Marc Ayrault in una nota ha detto di essere scioccato per il taglio dei posti decisi, bisogna trovare una soluzione per i dipendenti, non accettiamo, ha detto il governo, non accettiamo questo piano. E devo dire che è un atteggiamento che ha il governo francese un po' diverso da quello che ha il governo con la Fiat di Marchionne. Lo dico senza polemica, ma è ma è così. Scrive un ascoltatore: con i gioielli non mangi, chi se ne frega di Valentino? Eh no. È proprio con i marchi storici dell'Italia, che la moda, con i marchi storici della moda, i più famosi della moda, che l'Italia si è imposta sui mercati, perché servono spesso quei marchi da apripista per far conoscere il paese, lo abbiamo spiegato molte volte, hanno un ruolo di punta di diamante e dietro si portano poi l'intera industria, oltre che l'immagine di un paese. Attenzione a pensare che si mangi solo con altri tipi di attività manifatturiere. Se poi c'è un motivo per cui scappa, non è che scappino in questo caso le aziende italiane, vengono comprate da stranieri. Il punto è perché non si trovano imprenditori italiani disposti o disponibili a mettere i soldi. Non vale tanto solo per Valentino, vale anche per Ducati, ne parlavamo al tempo di Bulgari, per Brioni, insomma, attenzione. Noi produciamo marchi che diventano famosi e poi non riusciamo a tenerli. È un po', se volete, quello che capita con la formazione. Formiamo i nostri ragazzi e quando poi sono formati, i costi li ha lo Stato, se ne vanno all'estero, che qua non trovano un ambiente corretto. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms. Nella seconda ora del programma parleremo anche di chi ipotizza ormai che l'Italia debba uscire dall'euro. Molti di voi ci hanno detto: perché non invitate alcuni degli economisti che ritengono che faremo meglio uscire dall'euro? Noi siamo dell'idea che sia una follia, però ascoltiamo le idee di tutti, ed ecco perché ne parleremo nella seconda ora del programma. Le altre notizie in breve. Allora, e dall'America arriva un dato migliore delle attese sui sussidi della disoccupazione. L'euro per la prima volta da due anni è sotto quota 1,22 a 1,2190. La Banca Centrale Europea dice che pesano per la ripresa dell'area euro la disoccupazione e il debito. Non è previsto un miglioramento dell'occupazione nell'area euro. Come vanno gli spread? Dacci oggi il nostro spread quotidiano. 460 punti, di nuovo salito un po'. Il Tesoro oggi ha collocato tutti i bot a un anno, 7 miliardi e mezzo di euro, con un rendimento in calo rispetto a metà giugno. A metà giugno pagavamo il 3,97% di rendimento, oggi abbiamo pagato, cioè abbiamo dovuto offrire per trovare compratori per il nostro debito, solo tra virgolette il 2,69%. E poi il neo ministro dell'economia Vittorio Grilli, a margine di un'audizione alla Commissione Bilancio e Finanze del Senato, ha detto che se la spending review, la revisione della spesa pubblica, funzionerà, si eviterà l'aumento dell'IVA per gli ultimi tre mesi del 2012 e per i primi sei del 2013. Però attenzione, per evitare l'aumento dell'IVA anche nella seconda metà del 2013 servirà trovare altri 6 miliardi di euro. La Corte dei Conti, il presidente Luigi Giampaolino, sostiene che in Italia c'è una situazione di forte squilibrio nel prelievo fiscale e c'è un ingiusto vantaggio di coloro che hanno concreta possibilità di autodeterminare la base imponibile dichiarata. Insomma, chi è dipendente o chi invece è partita IVA, questo l'ha detto il presidente della Corte dei Conti. Ha detto però anche che gli adempimenti fiscali in termini di tempo e di denaro sono sovente così lunghi e hanno dei costi così alti da ostacolare l'adempimento stesso, che la soglia di contanti a 1000 euro, non superiore a 1000 euro, è ancora una soglia troppo alta e che comunque l'Italia è tra i paesi dove, dopo la Turchia e il Messico, nell'OCSE, dove maggiormente si evade l'IVA. E poi i tecnici del Senato che hanno dubbi sull'inquinamento delle aliquote IVA, servono chiarimenti, dice, determinano un effetto certo ed immediato, mentre i risparmi di spesa possono presentarsi incerti. c'è un ulteriore contenimento dell'assistenza farmaceutica territoriale, potrebbe implicare conseguenze negative sulla redditività delle aziende farmaceutiche in Italia. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giada però ha detto: attenzione, i tagli agli enti locali riguardano solo il 3%, cioè 7 miliardi e mezzo derivanti dal spending review, ma a gelare le attese già molto scarse sul 2012 oggi è stato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Perché? Perché già abbiamo diffuso una previsione sul 2012 in cui il PIL calerà del 2% e non dell'1,6-1,3% come stimavano inizialmente i tecnici del governo. Oggi Squinzi, a margine del premio Leonardo, ha detto: attenzione, il calo del PIL italiano nel 2012 sarà probabilmente oltre il 2,4%. Il nostro paese, che non ha materie prime, che ha un costo di energia elevato, che ha un sistema infrastrutturale piuttosto ormai scalcagnato, che ha un sistema fiscale pesantuccio, che ha un costo del lavoro che non è certo tra i più bassi al mondo, non ha altra possibilità che investire sull'unica cosa valida che abbiamo, che è la materia grigia che c'è nella testa dei nostri imprenditori, dei loro collaboratori, in generale di tutti gli italiani. E da questo punto di vista vi assicuro che siamo al top mondiale. E sulla crescita, o meglio la recessione, preoccupazioni anche da parte del ministro Passera, intervenuto sempre a margine del premio Leonardo. Quello che è il messaggio è che non c'è né una ragione né una sola ragione e non c'è una sola misura che può rimettere in moto il Paese. Dobbiamo, con umiltà, con determinazione e lavorando insieme, come peraltro abbiamo fatto in questi mesi, lavorare su tutte le ragioni che hanno, tutte le condizioni della futura crescita. In parte dipenderà anche da come l'Europa si comporterà, e qui l'Italia, proprio grazie alla rinnovata credibilità, ha potuto imporre una agenda anche di crescita, perché se non c'è il contesto europeo è difficile che ci salviamo, cioè che rimettiamo in moto la crescita da soli, e però senza dimenticarci anche le cose che funzionano. Guarda, ieri in Russia, insomma, presenze italiane che è una meraviglia da vedere, rispetto nei confronti degli italiani che c'è nei confronti di pochissimi altri paesi presenti. Quindi non dimentichiamoci pezzi. Insomma. E però tengono ancora banco le dichiarazioni di ieri del presidente Consiglio Mario Monti sulla concertazione. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, dopo aver detto sono in silenzio stampa, non voglio commentare, però ha commentato, diciamo, la necessità di essere e di remare tutti nella stessa direzione, perché tutti siamo sulla stessa barca. Come ho detto nei giorni scorsi, siamo tutti sulla stessa barca, siamo in un momento tempestoso, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. E invece tiene ancora a banco la dialettica, chiamiamola così, insomma, molto spesso politica e anche da scontro tra Confindustria e il ministro Fornero sulla riforma del mercato del lavoro. Il presidente Confindustria Squinzi ha detto: aspetto ancora di farmi convincere dal ministro Fornero. La riforma del lavoro è, diciamo che non è soddisfacente, il termine che lei ha citato è venuto in una conversazione che ritenevo privata. In effetti non ha migliorato sensibilmente la flessibilità in uscita e in compenso ha abbassato la flessibilità in entrata. Ecco, io ne ho parlato anche personalmente col ministro Fornero, che comunque mi sembra, nel confronto tu per tu, persona molto disponibile, che ha detto e continua a ripetere, vedrà che io la convincerò. Io adesso sono qui, io sono molto disponibile, molto aperto al dialogo, aspetto di farmi convincere, mi auguro che veramente, ma credo che comunque qualche correttivo sia necessario, insomma. E sentiamo il ministro Fornero sulla concertazione. Quindi io devo dire una cosa, per evitare troppe polemiche, l'eccessiva o gli eccessi della concertazione sono sbagliati. Quando tu blocchi un paese perché tutti devono essere d'accordo o scarichi i costi di un accordo tra sindacati e datori di lavoro sul debito pubblico, è chiaro che è sbagliata. Però attenzione, avere una concertazione sana e positiva, cioè che si raggiunge un accordo evitando scioperi, evitando tensioni, evitando blocchi, è un bene del paese. Cioè, sempre meglio mettersi d'accordo piuttosto che arrivare agli stracci. Detto ciò, la concertazione da noi purtroppo ha assunto spesso nel passato anche le caratteristiche di uno scambio tra virgolette politico, non solo di un tentativo di evitare eccessive tensioni e arrivare a un accordo che tutto sommato soddisfi le parti e le controparti. Comunque sentiamo il ministro Fornero sulla concertazione. Io penso che sia importante dialogare con le parti sociali e penso che il presidente Monti volesse intendere proprio questo. La responsabilità è di chi deve poi prendere le decisioni e quindi anche in mancanza di un accordo le decisioni vanno prese. Quindi se concertazione vuol dire assumere le decisioni tutti insieme, io credo che abbia ragione il presidente Monti, questo può contribuire a deresponsabilizzare, anche se la concertazione ha avuto in una certa fase storica di questo paese un ruolo molto importante. È importante anche dialogare. Lo dico io che sono stata accusata molte volte di non ascoltare, ma credo che sia un'accusa ingiusta. Io ho una disponibilità all'ascolto, però poi le cose bisogna chiuderle. Ancora due notizie, poi passiamo ai primi temi. Per quello che riguarda l'assemblea di Impregilo, è stata aggiornata al prossimo 17 luglio, quindi la votazione sul rinvio tra settembre non ha avuto la maggioranza, lo ha deciso il presidente Fabrizio Parenzona. Sapete che lì stanno scontrando il socio Gavio contro il socio Salini, abbiamo parlato di tutti questi in questi giorni. Secondo Le Figaro invece la Francia sta pensando a un possibile stop della Torino-Lione a causa del costo elevato, 12 miliardi, e dei problemi di ristrettezza economica. La Torino-Lione, per inciso, quella che riguarda la TAV in Val di Susa. Della Francia, inteso come crisi di Peugeot, parleremo nella seconda parte del programma. Adesso ancora due notizie sulla crisi che gli altri non vedono. Mi dispiace che un ascoltatore dica: ma perché usate tutti questi stacchi sulla crisi? Perché ci piace così. E invece a chi dice: ma quante banalità, dice la Corte dei Conti, avete ragione. Cioè, anch'io resto un po' perplesso nel sentire, con tutto rispetto per il presidente Giampaolino, che scopre che in Italia c'è una sperequazione tra chi paga le tasse alla fonte e chi invece può autodeterminare il suo reddito, che gli adempimenti sono troppo lunghi e costosi. Insomma, dai, la Corte dei Conti potrebbe anche concentrarsi su uno sforzo maggiore e dirci qualcosa che già non sappiamo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E allora parliamo questa volta non di regioni, di comuni, ma di ministeri. E torna in ballo il ministro Romano, già coinvolto in altre vicende, Saverio Romano, ministro dell'ultimo governo Berlusconi, ministro dell'agricoltura. E in questo caso la vicenda riguarda il sistema integrato nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura. Qui ci vuole purtroppo sempre una speranza che nessun tedesco ascolti, una base adeguata, Allora, si chiama SIN, che in inglese vuol dire peccato, in italiano sta per Sistema Integrato Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, però l'inglese forse ci azzecca di più. Perché? Perché dispone di 7 miliardi e 200 milioni di euro che vengono affidati all'Italia dalla politica agricola comunitaria, cioè da Bruxelles. Sono fondi che lo Stato italiano è tenuto a ripartire e destinare all'agricoltura nazionale. Tutto procedeva bene con i ministri Alemanno, De Castro, Galan e Zaia. Qualcosa è cambiato quando è arrivato nel marzo 2011 il ministro Saverio Romano. Perché lui ha sentito la necessità di cambiare subito il consiglio di amministrazione e ha inserito due suoi fedelissimi. E poi ha modificato lo statuto trasformandolo da SRL in SPA. E a questo punto cosa succede? Che scatta l'aumento degli stipendi dei 5 consiglieri. Pensate che da 280.000 euro complessivi si è passati a 580.000 euro ad agosto, poi 600.000 euro a dicembre. E pensate che l'amministratore legato del fondamentale Sistema Integrato Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, il SIN, si chiama Domenico Pecoraro, prendeva 318.000 euro all'anno, il presidente Francesco Baldarelli 150.000. Adesso però, con il nuovo AD e il nuovo presidente Ernesto Carbone, il costo annuale è sceso da quei 600.000 a 160.000. Complimenti, ex ministro Romano, non bastavano varie inchieste nei suoi confronti. Devo dire che è una bella scelta quella di infilare i suoi fedelissimi e portare gli stipendi a 318.000 euro l'anno, un amministratore legato di una cosa che dovrebbe distribuire i soldi di Bruxelles all'agricoltura, se vi sembrano pochi. Ma non è mica finita qui, perché il tango della Maiella che sentite va avanti. Come se non bastasse, sotto la gestione dell'ex ministro Romano, visto che andiamo a elezioni a marzo, poi ricordiamoci queste cose, si era dotato di una nuova auto di grossa cilindrata per l'amministratore delegato, che si aggiungeva a quella del presidente, con due autisti dedicati assunti, fondamentali, no? Per il Sistema Integrato Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura. E solo il costo delle due vetture è stato di 160.000 euro, quindi non macchine così proprio utilitarie, che oggi sono state restituite. E poi pensate un po' che nel novembre 2011 il CDA, il nuovo CDA, quello di Saverio Romano, aveva deciso di non comprare più due macchinari Oracle per informatica che costavano 500.000 euro. E vabbè, ma un mese dopo decide di comprare due cervelloni dell'IBM identici, pressoché identici, ma sapete quanto li ha pagati? 3 milioni di euro, 3 milioni di euro. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E adesso la RAI, perché c'è la procura di Rieti che indaga sulle spese del consigliere RAI Guglielmo Rositani. Anche qui, viste le spese, io purtroppo sempre nella speranza che i paesi del nord Europa non ci ascoltino, datemi un'altra base, mi stanno veramente girando oggi, andiamo. Allora, il consigliere RAI Guglielmo Rositani, in quota PDL, confermato a sorpresa per il secondo mandato, è indagato, non è indagato, la procura di Rieti ha aperto un fascicolo, vuole capire se lui ha usato a scopo privato i soldi pubblici che aveva a disposizione per il suo ruolo in RAI. Praticamente 11 ricevute per un totale di 3.870 euro relative al periodo 9 aprile 21 agosto. Rositani aveva l'abitudine di organizzare grandi tavolate per cene molto costose. 420 euro all'hotel ristorante da Checco a Roma, 500 euro al ristorante La Foresta, dove ha replicato per tre volte, prima con 7 commensali, poi con 14 e poi infine con 5, per un totale alla fine di 1.300 euro di conto al ristorante. Vai Rositani, vai! E poi 300 euro per il gioielliere Passi, tutti con i soldi diciamo a disposizione per il suo ruolo, 400 euro presso la gioielleria Cesare Amici, dove è tornato per altri 380 euro di acquisti, 150 euro in profumeria, 310 euro in un negozio di articoli sportivi, 110 euro in intimo e biancheria. Io capisco insomma che si dice che la RAI è in mutande, ma spendere 110 euro in intimo e biancheria addebitando il conto della nota RAI, no, Rositani, ma che è? E gioielli come li giustifichiamo per il ruolo di consigliere? Noi attendiamo una sua chiamata, siamo qui, tranquilli, beati, si fa per dire, un po' anche arrabbiati. Valentino, un altro pezzo d'Italia che se ne va, dico subito che non c'è nulla di strano se gli stranieri comprano marchi italiani, anzi ci lamentiamo spesso che manchino gli investimenti degli stranieri in Italia, il problema è se lo shopping è solo una direzione, cioè dall'estero verso l'Italia, mentre noi compriamo molto poco fuori, e il problema è anche l'accelerazione di questo shopping, perché qua stanno comprando i marchi, cioè i nomi, non solo le industrie in senso stretto, e nei settori soprattutto del lusso, ripeto, settore tra i più anticiclici, ossia c'è la crisi per tanti settori, non per il lusso, perché i miliardari nel resto del mondo, milionari, Ci sono e come, e non solo nel Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, anche in Turchia, anche in Kazakistan, anche nella penisola araba. E allora vediamo, nell'arco di un anno, è vero che nel passato era successo già che Lactalis acquisisse l'Invernizia nel 2003, Fattoria Scaldasole ad Andros nel 2005, l'Olio Sasso che andò anche l'Olio Carapelle, gruppo spagnolo SOS, la Galbani andò nel 2005 Lactalis, per carità, e questo fa parte del gioco. Però nell'ultimo anno, cioè dal marzo 2011, la situazione secondo me ha preso un'accelerazione. Marzo 2011, il gruppo Louis Vuitton Moët si compra Bulgari, dell'intera partecipazione di Bulgari da parte della famiglia Bulgari stessa, pari al 50%. Sempre in quel periodo, poi, anzi qualche mese dopo, Parmalat viene acquisita dai francesi di Lactalis. A ottobre dell'anno scorso la maggioranza del gruppo energetico Edison va ai francesi di EDF, e sono sempre i francesi, perché questa è la campagna, una campagna di Francesco II qui. E a novembre 2011 il gruppo del lusso francese, l'altro colosso, PPR, compra il marchio italiano Brioni. A dicembre la sudcoreana Ellen Ward ha comprato il 50% di Coccinelle per 15,5 milioni. A inizio dell'anno la cinese Shandong ha acquisito il 75% della Ferretti, e poi la succursale britannica della Mitsubishi, Prince, ha acquisito il 51% della foggiana AR Industrie Alimentari. Ad aprile, quindi l'altro ieri, l'Audi ha comprato la Ducati per 860 milioni, dopo aver avuto già la Lamborghini e la Ital Design di Giugiaro. E appunto oggi si è saputo che i soci di Valentino, quindi il fondo di private equity per Mira e la famiglia Marzotto, hanno ceduto le quote di Valentino, e il gruppo passa al fondo Maiola, che è un fondo del Qatar. La cifra dovrebbe essere sui 700 milioni di euro, quindi pagando 28 volte il margine operativo lordo del 2011, che fu di 22 milioni. Il gruppo Valentino vuol dire 320 milioni di euro di fatturato, più 60% del fatturato di Valentino Fashion Group tra il 2009 e il 2012. I dettagli dell'operazione con la collega Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Buonasera Giulia. Buonasera. Intanto appunto diciamo che tutto sommato, a voler guardar bene, Valentino Fashion Group era già poco italiana dal 2007, sì, perché la famiglia Marzotto era azionista di minoranza, 20%. Con circa sì, il 20%, e il fondo per Mira è un fondo londinese. E l'operazione del 2007 era molto diversa, nel senso che allora furono sborsati 5,3 miliardi di euro, perché al tempo del gruppo faceva parte anche Hugo Boss, che è il vero gioiello del gruppo, che oggi è stata poi scorporata nel 2009 durante la ristrutturazione del debito ed è quotata alla borsa di Francoforte e ha una capitalizzazione di oltre 5 miliardi. E poi c'è anche dentro Marlboro Classic, che però in forza di questo accordo siglato oggi o reso noto oggi non fa parte, non prende la via del Qatar. Quindi questo marchio, che tra l'altro è in forte espansione, era presente a Pitti con una nuova collezione, ha forti piani di sviluppo retail per la parte donna, che è quella dove poi gli accessori danno i margini migliori, questa parte resta in Italia. Quindi vanno via il marchio Valentino, che comunque è in una fase di grandissimo rilancio. Il 2 luglio scorso a più Parigi, è vero, c'è stata la sfilata di alta moda, è un grandissimo successo, e la licenza di M. Missoni, che comunque è il marchio diciamo giovane del gruppo Missoni, che anche quello è un marchio che è sicuramente molto interessante e molto conosciuto all'estero, perché questi marchi poi hanno questa fortissima, questo brand value viene chiamato. Esatto, questo fortissimo valore sul marchio. Tra l'altro tu ricordavi giustamente che invece Hugo Boss resta nella situazione in cui era, cioè resta la quota di maggioranza di Permira e dei Marzotti in Hugo Boss. È una magnifica preda anche quella, sappiamo che ci sono molti, molti qualcun altro la vorrà prima o poi. Sì. E l'altra cosa interessante che dicevi tu è cosa vuol dire che un marchio italiano cambia carta d'identità. Secondo me, proprio per il lavoro fatto in questi anni, sia di ristrutturazione aziendale fatto dall'amministratore delegato del gruppo Stefano Sassi, che già da giugno aveva cominciato a lanciare qualche segnale, l'azienda è in vendita perché è pronta per essere venduta. Insomma, ricordiamoci che i fondi. I fondi stanno 5 anni di solito, per cui il tempo l'hanno comprata nel 2007, siamo al 2012, i fondi di private equity di solito entrano per 5-6 anni e poi escono per definizione. Certo. Infatti, il problema non è. Non è il fondo in sé, è vedere che come mai un altro marchio italiano finisce in mani straniere, tutto qua. Questo sicuramente è perché loro hanno, ricordiamoci che in Qatar, che tra l'altro è uno dei paesi più stabili dell'area OPEC, oltre ad essere uno dei più ricchi, stanno investendo in moltissimo, stanno diversificando moltissimo, forse in vista insomma di un futuro in cui l'olio e il gas naturale non saranno più così centrali, quindi hanno una quota di Elwë & Mash, hanno una quota di Tiffany, hanno Harrods, quindi non è e sembrano fare molto sul serio, quindi secondo me le cose sono due: mantenere la produzione in Italia, perché Valentino è sicuramente un marchio che produce praticamente tutto in Italia ed è questo che ne garantisce la qualità, e poi anche dare fiducia a questi due stilisti che sono quelli che hanno veramente dato una svolta allo stile, ma tra l'altro loro erano cresciuti all'ombra di Valentino Garavani, il fondatore, quindi non hanno tradito lo spirito del fondatore, però sono riusciti a modernizzare tutto. Si chiamano Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli e sono una coppia di stilisti molto affiatata. Ecco, forse se gli arabi avranno l'intelligenza di capire questo, salvaguardare il Made in Italy e il patrimonio di stile che viene da lontano. Io penso che su questo nessuno va a comprare a 28 volte i multipli per poi indebolire cosa vai a comprare, per cui se questo ha funzionato il più 60% di Valentino in questi 4 anni la dice lunga, no? Purtroppo noi abbiamo sotto gli occhi il caso Ferré, che è una cosa che fa sanguinare i cuori di tutti noi che seguiamo il settore, perché era un marchio anche di una storia che ormai dal 2011 è stato acquisito da questa società di Dubai e non sembrano né voler fare gli investimenti giusti, perché anche lì ci voleva un turnaround, né avere forse la visione, la serietà, la visione per capire che comunque la moda è il rischio è questo possibile. Quando ti metti nelle mani degli stranieri, però non è che lo straniero sia sbagliato per definizione. Ne ringraziare Giulia Crivelli, ringrazio però e saluto anche Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster e studioso entomologo delle imprese italiane, come lo chiamo io. Buonasera Bonomi. Buonasera a voi. Allora, Bonomi, mi aiuti ad uscire da un dubbio, non dico amletico, ma insomma, da un lato io sono contento se arrivano gli stranieri anche del Qatar, oltre che i francesi, comprano pezzi di industria italiana, perché vuol dire che mettono soldi freschi. Dall'altro però, senza voler essere nazionalista, sapendo che viviamo in un mercato globale, insomma, vedere che tutti questi brand values, ossia dove tu vai a vendere il marchio che ti permette poi di agganciarci mille altre cose dietro, vanno all'estero. Non sta diventando un po' troppo insistito lo shopping straniero verso l'Italia? Con la sua premessa che in linea di principio il mercato è il mercato, quindi ovviamente il problema non sussiste in termini teorici. Quello che mi preoccupa è invece se ci si fa un'altra domanda. L'altra domanda è: usciremo da questa crisi ancora come il secondo paese manifatturiero d'Europa che è riuscito a fare una metamorfosi del proprio sistema produttivo? Questo è il tema vero, perché io ho una grande preoccupazione. Il nostro albero del nostro capitalismo, della nostra manifattura è fatto da una punta di 4.000 medie imprese eccellenti, e molte di quelle che lei ha elencato oggetto di shopping sono fondamentalmente questi, che sono i nostri marchi, sia nel mondo del lusso o della moda, ossia nel mondo anche della meccanica fine, del design e della progettazione. Poi abbiamo 6 milioni di, diciamo così, un corpaccione intermedio di capitalisti molecolari, e poi abbiamo quelli che voi avete già trattato disperati mai, quelli che sono in difficoltà dentro la crisi. Il vero problema è che l'ossatura, l'avanguardia, la cinta di questo capitalismo è fatto da quelle medie imprese eccellenti che hanno sempre dato all'idea al sistema. Sono quelle che fanno filiera produttiva, che riescono ad andare là e danno conoscenza e competenza. Se senza questo noi non ce la facciamo. Ma secondo lei perché non si trovano, io ripeto, non sono un nazionalista, Lei dice questi 4.000 che sono un oggetto di shopping sono la punta di diamante, quelle che hanno know-how, vanno sui mercati per le dimensioni che hanno e quindi si portano dietro poi anche parte delle più piccole, medie del sistema produttivo. Quindi attenzione a perdere chi è lo spaccaghiaccio sui mercati. Ma perché non si trovano capitali italiani per queste imprese, secondo lei? Ma qui la risposta è abbastanza complicata. Il vero problema è che il nostro capitalismo molto spesso ha voluto fare le nozze con i picchi secchi, come sappiamo, anche rispetto ad alcune cose. Non è mai stato abituato ha una visione di grandi investimenti, ha un rapporto tra economia, manifatturiera e finanza rispetto a questo. Anzi, la crisi finanziaria ha reso ancora più debole quella ossatura di economia manifatturiera che abbiamo. Allora il problema è questo, è il rapporto tra, diciamo al nostro problema eterno, il rapporto molto delicato tra banche e imprese e il rapporto di un capitalismo che molto spesso non investe in maniera strategica sul crescere i propri marchi e andare avanti. Certo, poi quando le offerte del mercato sono quelle che ha elencato lei prima e uno rivende e fa un profitto così alto, è chiaro che non si può dire che ha sbagliato, ma però ci rendiamo conto che a questo punto è un problema difficile che abbiamo visto anche ad esempio nelle nostre molto spesso false privatizzazioni. Il problema si può privatizzare senza mettere in capitale. Questo è il problema, quindi un capitalismo che da questo punto di vista rimane comunque gracile. Un capitalismo gracile che nella ricostruzione chiaramente in generale, come ha detto lei, tende a fare nozze con i fichi secchi. C'è il problema appunto dell'apporto bancario. Devo dire che quando Intesa San Paolo provò a trovare una cordata per Parmalat andò deserta, per cui anche lì ognuno si prende le sue responsabilità e attenzione, ma perché lei ha anche ragione a dire la gracilità delle nostre imprese, molte privatizzazioni sono state fatte sostanzialmente a debito e quindi poi non vorrei tornare sulla vicenda Telecom Italia, ma insomma, no? E poi spolpando tra virgolette l'azienda per ripagare l'operazione fatta, è chiaro che non si può fare così, non si va da nessuna parte. Vedo che molti dicono attenzione, bisogna anche accettare i soldi di stranieri, tanto anche i nostri gruppi producono all'estero, va tutto bene, il problema è non nel breve, nel brevissimo, il problema è che cosa capita ai centri di ricerca, alla testa di queste aziende, di questi gruppi nel medio termine, cioè se resta veramente in Italia o se lentamente pure la testa oltre che le braccia si trasferiscono all'estero. Grazie Aldo Bonomi, mi scuso con il pubblico per la cattiva qualità del collegamento. Adesso vorrei fare la borsa e poi ci spostiamo invece in Francia, dove ci sono tensioni fortissime sulla vicenda Peugeot, ma dove il governo francese, non so se ha torto o ha ragione, faccio solo notare la differenza, è intervenuto in maniera molto netta contro il gruppo Peugeot. Non ho mai visto il governo italiano intervenire in maniera così netta sul gruppo Fiat, anche nonostante le varie dichiarazioni in questi anni di Sergio Marchionne. La borsa. Milano è la peggiore tra quelle più grosse, meno 2% oggi, soprattutto per via di Telecom Italia. Allora partiamo da Telecom, meno 6,47, poi c'è anche il lusso che dopo i dati di Barbaris di ieri continua ad andare male, ma viene da periodi di grande crescita in borsa. Comunque Telecom meno 6,47%, Eleonora Micheli, Radio Colle Sole 24 ore, buonasera. Buonasera, sì, nei giorni scorsi Telecom Italia aveva tentato di rialzare la testa, le azioni si erano portate a 0,75 euro, oggi hanno perso tutto, si sono riportate a 0,70 euro, meno 6,47%, come hai detto tu. Che dire, innanzitutto il Financial Times di questa mattina ha indicato, ha acceso i riflettori sul fatto che le vendite al dettaglio in Brasile, paese nel quale la società è molto esposta, hanno registrato un rallentamento, a maggio hanno registrato il peggior calo dal 2008. In più alla borsa, come se non bastasse, la borsa brasiliana, i titoli della controllata Tim Brasil hanno perso oltre il 7%, perché la stessa Tim Brasil, controllata appunto di Telecom Italia, è stata ripresa dal ministro delle comunicazioni Paolo Bernardo, che ha sollecitato gli investimenti, altrimenti sospenderà tutti i piani di sviluppo della compagnia. Quindi questa ovviamente è stata una notizia molto negativa per una società che negli ultimi anni è cresciuta proprio per merito dell'esposizione in Brasile e in Argentina. Infine c'è anche in borsa, sì, circolata anche la voce che possa essere in via d'uscita dal capitale della compagnia un grosso fondo di investimento. Ma questo andiamo più rapidi, Eleonora, perché abbiamo altri titoli. Mediaset continua in calo del titolo da quando sono usciti i palinsesti. Perde il 3,83% oggi. Sì, è dalla scorsa settimana che le azioni vanno giù, del resto i vertici della società hanno indicato che il primo semestre sarà difficile, non hanno dato i dati ma hanno fatto comunque presagire che il calo della raccolta pubblicitaria sarà attorno al 10-11%, ovviamente anche le previsioni per i mesi venturi, non, magari anche se di lieve miglioramento, non sono comunque esaltanti, e da qui gli investitori hanno deciso evidentemente di alleggerire le posizioni. Ancora sui titoli, le banche, Popolare Emilia Romagna meno 4,50, Banco Popolare meno 3,94, di nuovo il lusso, ma l'abbiamo già detto ieri, per Barbary's, Tod's meno 4,37, Ferragamo meno 4,14, Luxottica meno 3,34%, Fondiera Assai Unipol, è arrivato l'ok della Consob, l'aumento di capitale, no, il 16 luglio. In questo caso è arrivato l'ok della Consob, i titoli hanno preso a andar giù, ovviamente sappiamo che i prezzi ai quali saranno lanciati gli aumenti di capitale che partiranno lunedì prossimo sono molto bassi e quindi Fondiaria 6 ha perso l'11%, anche Unipol ha perso più del 5%, ma è andata male ovviamente tutta la galassia, la stessa Premafin, la holding che controlla Fondiaria, ha accusato una flessione del 6,15%. Ancora tra i migliori e i peggiori, Meridie più 14,80 e Esprinet più 6,50, Renault più 4,70 e i peggiori invece Fondiaria Assai meno 11,46, Unipol sulle privilegio meno 10,40, Stefanel meno 9,70% e appunto Telecom dicevamo, ma anche Premafin, la finanziaria del gruppo Ligresti che controlla Fondiaria Assai e Milano Assicurazioni, Premafin perde il 6,15%. Grazie Donna Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Sprechi, spese assurde che noi continuiamo a registrare, ve lo dico tranquillamente, nella rubrica ma cos'è questa crisi, cioè la crisi che gli altri non sentono. Io mi auguro che il consigliere Rai, visto che molti ci scrivete su questo, il consigliere Rai su cui ha aperto un'inchiesta la procura di Rieti, Guglielmo Rositani, per le spese effettuate, al di là delle dubbie spese di rappresentanza sui costi dei ristoranti, avendo tutto, però, ma anche i 400 euro di gioielleria, 700 euro di gioielleria e via così, tutte con la carta della RAI, ci chiami per spiegarci come mai hai speso questi soldi in gioielleria o in lingerie e in intimo che servivano per la RAI. Adesso ci occupiamo invece di quello che sta capitando in Francia. Di petrolio ho promesso che parleremo entro domani, ne parleremo, avete ragione anche voi, non abbiate paura di questo, non è un tema l'andamento futuro del petrolio che muore con oggi o con domani, però adesso trasferiamoci in Francia dove si stanno generando delle tensioni fortissime per l'annuncio fatto dal gruppo francese PSA, Peugeot Citroën, 8.000 tagli, 8.000 posti di lavoro in meno. Stiamo parlando infatti del principale costruttore automobilistico francese, il secondo in Europa, la famiglia Peugeot è il principale azionista con il 25% del capitale e il 38% dei diritti di voto, ha 209.000 dipendenti in tutto il mondo, fattura quasi 60 miliardi di euro, le vendite di auto sono calate l'anno scorso di 1,5%, ma in sostanza 3,5 milioni. E Peugeot produce il 44% delle sue macchine in Francia, mentre Renault fa solo il 33%, valutava nel 2011 a circa 700 euro la differenza di costo di produzione tra una macchina fatta a Poissy e la stessa fatta in Slovacchia. Poi iniziano i problemi, nei primi sei mesi del 2012 la divisione auto ha perso 700 milioni di euro, ossia ha bruciato liquidità pari a 200 milioni di euro al mese, meno 14% le vendite in Francia nei primi sei mesi, meno 20% in Italia, meno 13% a livello mondiale. E il presidente di Peugeot Citroën, Philippe Varenne, ha escluso l'eventualità che il gruppo riceva aiuti di Stato dopo aver annunciato appunto il taglio di 8.000 posti di lavoro. Ascoltiamolo durante la conferenza stampa parlare del futuro degli stabilimenti di Aulnay e di Rennes, che sono i due coinvolti nei tagli. Cette situation elle est durable et donc nous devons prendre des mesures. È una situazione che dura da tempo. Dobbiamo prendere dei provvedimenti per fronteggiare la sovracapacità dei nostri stabilimenti e la perdita di centinaia di milioni di euro ogni mese, che va avanti ormai da un anno. Si tratta innanzitutto di misure di ristrutturazione industriale, con lo stop della produzione della C3 a Aulnay e il trasferimento nella fabbrica di Poissy. Riconvertiremo Aulnay. Proporremo a metà dei 3.000 dipendenti il trasferimento a Poissy e all'altra metà delle soluzioni di impiego nel bacino di Aulnay. Riguardo il sito di Rennes, dove si produce la grande berlina, un mercato in continuo calo in Europa, dobbiamo adattare le attività di 1.400 persone. Nonostante sia difficile, ci impegniamo nel futuro del sito di Rennes e reinvestiremo in un nuovo modello nel 2016. Il gruppo non lascerà nessuno per strada senza una soluzione. C'è stata una fase di riflessione sia su Aulnay che su Rennes, ma oggi è chiaro che non c'è più tempo per riflettere, ma è il tempo di decidere. Il gruppo sta affrontando uno tsunami commerciale in Europa e siamo proprio nell'epicentro dello tsunami. Ed è guerra invece, secondo i sindacati, è una guerra dichiarata, dice il segretario della CGT, il principale sindacato, Bernard Thibault. Si PSA parla di suppression di 8 a 10.000 emploi, d'une part... PSA parla di un taglio nell'ordine di 8-10.000 posti di lavoro, ma si tratta dei soli dipendenti Peugeot. Dato che la notizia viene data come certa, non si tratta soltanto di 8-10.000 persone. Questo numero va infatti moltiplicato per 3, se non per 4, per avere idea dell'impatto sull'occupazione a livello nazionale. Non si può prendere questo annuncio come un fatto acquisito senza cercare di mettere in discussione una decisione che, come sempre, ci viene presentata come inevitabile. Noi non possiamo accettarlo, viste le conseguenze che tale decisione comporta. Ed è una reazione durissima quella che arriva dal governo francese. Il premier francese Jean-Marc Ayrault, in una nota, dice: sono sotto shock per il taglio dei posti nel gruppo Peugeot Citroën, si deve trovare una soluzione, aggiunge. Poi il ministro per il rilancio produttivo Arnaud Montebourg ha detto: noi non, in questi termini non accettiamo il piano. Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Poi arriveremo magari alle differenze anche su come il nostro governo risponde alla Fiat, ma non voglio partire subito con la polemica. Andiamo alla vicenda. È peggiorata brutalmente la situazione del gruppo Peugeot Citroën nel 2012, da lì i tagli? Sì, la situazione è peggiorata sicuramente, diciamo, negli ultimi 12 mesi, sì, a metà dell'anno scorso. Ricordiamo che per esempio quest'anno il mercato francese nei primi 6 mesi del 2012 è quello che insieme a quello italiano ha perso di più. Quindi meno 20 quasi per le vendite di auto in Italia, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, meno 15 in Francia. Peugeot, che è ovviamente nella Francia è il mercato più forte, ma è anche molto presente in Italia, ne ha subito le conseguenze. Diciamo che Peugeot, Renault e Fiat, insieme anche alla Opel, che ricordiamo è una filiale della General Motors, sono quelli che hanno risentito di più come vendite di questa crisi del mercato. Si vendono molte meno automobili, ovviamente per la recessione, con il calo generalizzato dei consumi, e questo ha fatto peggiorare i conti in una situazione che era già probabilmente al limite, cioè con un eccesso di capacità produttiva, perché non dimentichiamolo, si parla di quest'anno, ma dal 2007 a oggi le vendite di auto in Europa sono scese di 2 milioni di unità. 2 milioni vuol dire più o meno la produzione di 6-8 stabilimenti interi. Quindi si è aggravato un problema di capacità produttiva. Ecco, come mi interessa anche un paragone tra il modello francese e il modello italiano. Allora, vi faccio sentire cosa ha detto oggi il ministro Fornero a proposito di Marchionne. Perché da noi abbiamo anche polemizzato, non ho nessun problema a dirlo, ogni tanto Marchione prima ha promesso il progetto Fabbrica Italia se gli accordi venivano firmati a Pomigliano e se Termini veniva chiusa, poi però dice non si, vedremo, stiamo valutando se restare, come investire. Mi sembra un gran gioco, se mi permette il termine, di Amuinna, come dicono a Napoli, no? Chi sta a poppa va a prora, chi va a prora, chi sta a prora va a poppa, ma non si cambia nulla. E il governo italiano è sempre molto timido. Sentiamo la Fornero oggi. Io credo che bisogna convincere Marchionne che l'Italia è un paese nel quale vale la pena di investire. Questo governo sta facendo esattamente questo lavoro e quindi con la stessa determinazione con cui cercherò di convincere il presidente Squinzi che la riforma è una buona riforma, cercherò di convincere Marchionne che in Italia vale la pena di continuare a restare e produrre e innovare. Ecco, in Francia abbiamo visto invece Andrea, il Presidente del Consiglio e anche il Ministro, dire questa cosa qui non va. C'è una differenza, e lo sappiamo storicamente, nell'interventismo dello Stato francese sulla sua industria. Beh, sì, lo Stato francese è sempre stato interventista, ricordiamo che è ancora socio di Renault, con il 15% certo. del capitale, e tre anni fa, al momento peggiore della crisi, ha dato un prestito da 3 miliardi di euro a ciascuno dei due costruttori per superare il momento peggiore, prestito che poi era stato restituito quando la situazione è migliorata. Quindi è sempre pronto a intervenire in positivo e anche a appunto voler ben verificare se le conseguenze sociali delle decisioni delle aziende sono giustificate o meno e se effettivamente la situazione è così grave. Per quanto riguarda invece l'Italia, sia con il governo Berlusconi prima che con Monti adesso, si è adottata una politica di maggiore distanza che peraltro è, come dire, la stessa che ha tenuto la stessa Fiat. Marchionne si è, diciamo, voluto tenere le mani libere, a un certo punto ha detto noi non vogliamo più aiuti, non chiediamo incentivi, eccetera, con la premessa però che dal suo punto di vista a questo punto il governo lo lasciasse fare tra virgolette quello che voleva. Ricordiamo a proposito di aiuti che da un lato Fiat ha investito in questi anni in Messico, in Brasile, in Serbia, in tutti questi casi ha ottenuto aiuti rilevanti da parte dei governi e ottime condizioni. L'investimento in Serbia, che proprio in questi giorni sta iniziando a produrre la 500L, è un investimento che sarebbe dovuto andare a Mirafiori nel 2010. Probabilmente se Fiat non avesse investito in Serbia ma a Mirafiori, la situazione degli impianti italiani, che ricordiamo sono in Europa quelli che producono meno in proporzione, come utilizzano la capacità, sarebbe adesso meno grave. Eh sì, perché è una cosa che ti mordi la coda, tu produci in Serbia e poi continui a sostenere che da noi si produce poco, che nei tuoi stabilimenti italiani si produce poco. Vabbè, io registro senza fare ulteriori commenti un diverso atteggiamento tra il governo, comunque uno la pensa, tra un governo francese che dice attenta Peugeot, non puoi mandare a casa 8.000 persone, che poi vogliono dire 20.000 comprese le famiglie, in questo modo, e un governo italiano che dice sempre cercheremo di convincere Marchionne, ma subisce le scelte della Fiat senza mai avere controproposte, non perché un gruppo privato non possa fare quello che vuole, ma non si può neanche immaginare che un gruppo come la Fiat, diciamo, adesso ragioni solo con una testa estera, dopo essere stato nel passato, prima di Marchionne, ben aiutato dai contribuenti italiani. Grazie ad Andrea Malan. Massima, la Fiat ha abbondantemente restituito gli aiuti. Sono d'accordo, così come li ha restituiti alle banche a suo tempo Unicredit, Intesa, Monte dei Paschi e Capitalia, che fecero i 3 miliardi di obbligazione convertibile. Sto solo dicendo che così come c'è un paese quando hai bisogno di aiuto e poi glielo ridai, non puoi far finta adesso che la Fiat sia una normale multinazionale che è presente anche in Italia. Se poi vogliamo ragionare così in chiave teorica, vabbè, facciamolo pure. Detto ciò, la ballata dell'euro, perché appunto c'è chi ritiene che la ballata dell'euro debba concludersi con un ritorno alle singole valute nazionali. Professor Alberto Bagnai, docente di politica economica all'Università di Pescara, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, le piace sta ballata dell'euro? Beh, noto una certa simmetria. Lei ha fatto rappresentare la Germania da Beethoven e l'Italia da una canzone popolare. Devo ricordare che noi abbiamo insegnato ai tedeschi anche come si scrive la musica. Quindi... Questo è assolutamente vero. Non riuscivamo a trovare, così lo dico. Intanto volevamo una cosa un po' tetra che chiudesse l'allegria secondo i tedeschi dei paesi mediterranei. Cioè Nuria Rubini, noto menagramo, ha appunto detto che diciamo le note del destino stanno per suonare per l'euro nel 2013. Sì, sì, cioè, Rubini l'ha detto l'altro ieri, ha detto il 2000, sempre, io quasi mi do un gufo fra un po', ma la tempesta perfetta sta arrivando, ha detto Rubini l'altro ieri, sarà peggio del 2008. No, mi dica una cosa, brevemente, tutti gli studi che noi abbiamo visto sostengono che se si tornasse alle valute nazionali sarebbe un disastro, ma non solo per i paesi deboli, anche per la stessa Germania. I cinque saggi della Merkel hanno detto che il costo per Berlino sarebbe di 3.300 miliardi, ma non solo. Il rapporto UBS, la più grande banca svizzera, una delle più grandi al mondo, dello scorso settembre, diceva che per un paese debole il costo sarebbe tra i 9.500 e gli 11.500 euro a persona per il primo anno. Per poi ridursi un attimo tra i 3.000 e i 4.000 euro, una cifra equivalente al 40-50% del PIL, ma anche per i paesi forti il costo sarebbe tra il 20 e il 25% del PIL. Perché lei ritiene che noi si possa tornare alla lira senza avere, diciamo, la gente per strada e traumi sociali, modello argentino? Guardi, mi permetta di fare due osservazioni. La prima è che io non ritengo, nel senso che non sono solo io a ritenere, abbiamo uno stuolo che sicuramente conosce di premi Nobel che sostengono non tanto che la lira debba uscire o che si debba andare a una rottura dell'euro, ma che l'euro così come è insostenibile. Dopodiché si tratta di parlare, di discutere serenamente e non direi religiosamente, scientificamente quindi, su che cosa potrebbe essere un'Europa con un diverso euro o comunque senza questo euro. Per quel che riguarda gli studi che lei ha citato, sì, li conosco molto bene anch'io. Mi permetto di fare osservare a lei e ai suoi ascoltatori, so che lei è una persona molto attenta in questo senso, che questi studi sono emanazione per lo più di istituzioni finanziarie, istituzioni quindi che sono in un certo senso, se vogliamo dirlo, in conflitto di interessi. Cioè dice che... sarebbero i primi a pagare perché hanno prestiti effettuati. L'UBS, tra l'altro devo dire che questa informazione nel dibattito giornalistico italiano, non da voi che siete una testata molto attenta, sia nel cartaceo che nel radiofonico, ma ad altre testate è stata riportata in modo assolutamente scorretto. Si è parlato di 11.500 euro di costo per i cittadini italiani per un'uscita della Grecia dall'euro, quando lo studio come le sa diceva tutt'altro. Quindi vorrei che fossimo sereni e laici, perché altrimenti veramente si rischia di non aprire un dibattito deve creare degli spazi politici concordati. Allora facciamo una cosa, di questo dibattito parleremo anche perché qua abbiamo un appuntamento a 20 luglio e Rubini ci attendono in estate calda, però mi dia intanto un primo titolo, poi ne parleremo nelle prossime settimane. Perché le ritiene che non sarebbe, diciamo, così disastroso? Ma guardi, sicuramente noi abbiamo una serie di valutazioni che si appoggiano su circostanze fattuali errate. Noi abbiamo un precedente, il precedente di quello che accadde nel 92, quando ci sganciammo dal sistema monetario europeo, che di fatto era, con tutte le sue imperfezioni, un piccolo euro, nel senso che i paesi europei avevano un sistema di cambi fissi. Questo portò a una crisi che, come tra l'altro analizzo in uno dei miei ultimi lavori, aveva esattamente le stesse caratteristiche di quella attuale, e quando uscimmo, in effetti, non riscontrammo quello che adesso si dice che riscontreremo, cioè dopo una svalutazione del 20%, un'iperinflazione o roba di questo genere. Tanto è vero che, come nel mio blog ho più volte ricordato, lo stesso Premier Monti nel 93, l'anno successivo, ebbe a dire effettivamente, ritengo di aver fatto una valutazione errata, mi sembra di vedere che la svalutazione ha fatto del bene all'economia italiana, non ci sono stati effetti sull'inflazione. L'inflazione infatti scese dal 5 al 4%. Oggi affermare che un'uscita avrebbe conseguenze catastrofiche in termini di inflazione, quando siamo reduci insomma da un'esperienza di deflazione, è ancor più errato. Certo, ci sono tutta una serie di problematiche che attengono la regolazione dei rapporti di debito e di credito internazionale, che evidentemente richiedono di essere affrontati in maniera concordata, però come anche la testata, diciamo, che, alla quale lei in qualche modo appartiene, ha più volte ricordato, e come del resto nello stesso lancio lei ha ricordato, la Germania ha tratto grandi benefici dal gioco dell'euro e rischia di trarre grandi perdite. Allora, se ci mettiamo d'accordo, come sono state fatte molte proposte, per esempio da economisti francesi, su uno, diciamo, un'evoluzione concordata della situazione, staremo tutti meglio. Se ci dobbiamo fare la guerra, beh, insomma, è chiaro che l'esito potrebbe essere peggiore di quello che sarebbe se invece ci mettessimo d'accordo. Allora, professor Bagnai, io, come ho detto, la riavrò ospite perché mi interessa moltissimo sentire opinioni anche quando non sono d'accordo. Però faccio solo notare una cosa nel chiudere il programma di oggi, che lei ha ragione sul caso del 92 della lira, ma lì fu la stessa valuta che uscì da una banda di oscillazione dello SME. Adesso si tratterebbe di tornare a una nuova valuta, è una cosa un po' diversa, spacchettando l'euro e ristabilendo rapporti di cambio. Io personalmente in questo caso ho l'horror vacui, cioè ho la paura del vuoto, non so bene cosa stiamo ipotizzando, una cosa meglio non provare a vedere cosa c'è quando salti. Però accetto qualunque opinione, la ringrazio, grazie al professor Alberto Bagnai che ha il suo blog, lo trovate su internet visto che molti degli ascoltatori la seguono anche. Vi lascio alla programmazione di Radio 24, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi e domani prometto che parleremo anche di petrolio e, viste le previsioni, forse torna anche l'astrologa.